Sono le 7:11. Una carriera impeccabile, quella dell'Ariele, l'essere umano che vi sta parlando. 171 puntate, belle precise, belle in orario, anche in momenti avversi come nottate insonnie e quant'altro. Ma purtroppo la Route 66 de noi altri, la storica Varese-Milano, la Milano-Laghi A8, quest'oggi mi ha presentato uno di quegli incidenti, sai, tipo 3 veicoli pesanti e 7 autovetture, una di quelle robe così semplici che mi hanno causato questi 11 minutini di ritardo, ma ci faremo perdonare. Ah sì che ci faremo perdonare. Martedì 29 gennaio, pane, burro e rock and roll. L'anno ovviamente è il 2008, la tua colazione rock. Vi ricordo essere l'anno della svolta, pane, burro e rock and roll, non per la 8 probabilmente. Tra l'altro, se state andando da quelle parti lì, buon viaggio. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Buona giornata a tutti voi, amici e amiche, vicini e lontane. Questa è la colazione di Rock FM, servita in diretta dalle 7:11 alle 9 del mattino. Questo è l'orario nostro, il martedì. Devo dire che mentre ero lì che aspettavo, insomma, bloccato nel traffico, pensavo, adesso quando arrivo in radio, via sms ci saranno una scarica di insulti che tra l'altro me li merito tutti. Invece no, siete gentili, così tranquilli, c'è qualche saluto. Vabbè, no, niente, mi stavo lasciando prendere invece da appena lo dico scattano gli insulti, e fate anche bene. Iniziamo al volo con la musica, che è meglio, The Blues Brothers. Soul Man, Blues Brothers. Questo è l'inizio ufficiale, allora, della puntata 171. Parecchie le novità, abbiamo novità anche questa, c'è un periodo che siamo ricchi di novità, così deuzze nuove campagne, sapete che qui a Pane, Burro e Rock and Roll ogni tanto scatta la piccola riunione di redazione e parte subito la campagna. Ci piacciono le campagne, quest'oggi una nuova alla quale volendo potrete partecipare anche voi da casa, come al solito la nostra trasmissione. E a favore dell'interattività via sms piuttosto che via mail, piuttosto che via telefono, 02 6709 132. O spesso e volentieri ultimamente richiamiamo noi, perché facciamo i gentili, poi paga Rock FM, quindi si può fare una buona. Fatemi salutare Spadino, che era anche un po'. Eri preoccupato, Spadino? Eh? Hai visto che cattivo che sono? Non ho acceso il cellulare e volevo vedere se vi preoccupavate oppure no. In compenso sono riuscito ugualmente a battere il collega Roberto Fricantoni, che mi sta salendo l'ascensore come da contratto a quest'ora della giornata. Il contratto sono io che devo arrivare prima, che si sa proprio. Contratto? Vabbè, quella roba lì. Avremo l'almanacco del 29 di gennaio, come se no affrontare questo martedì che prosegue con gli R.A.M. di Bittersweet Me. Noi un rocker di riferimento ce l'abbiamo, si chiama Roberto Friccantoni e arriva direttamente da Bologna. Buona giornata, maestro. Buona giornata a voi, e per introdurre questo martedì vi canterò Ruby Tuesday. No, come mai? Accennerò a martedì rubino. Sì. Goodbye Ruby Tuesday. È il 29 di gennaio, miei cari amici là fuori, sottolineiamo con garbo il giorno che sta per nascere, con l'almanacco del giorno che fu, con un bel personaggio, Galileo Galilei, un rocker. Un rocker certamente, ma lei me la prende alla lontana. Sì, perché era il 29 di gennaio del 1613, quando Galileo Galilei osservò per primo Nettuno. Eccolo là. Rimanendo tuttavia inconsapevole della scoperta. Capita di scoprire Nettuno ma di non accorgersi. Non saperlo. E magari se lo ha puntato, oggi ho scoperto quella roba lì. Sì, lo avrà sicuramente scritto, altrimenti non se ne sarebbe accorto nessuno della sua inconsapevole scoperta. Almanacco che prosegue con il 1845, sempre oggi, il Corvo di Edgar Allan Poe viene pubblicato per la prima volta sul New York Evening Mirror. Come era tradizione di fine 800, infatti, i racconti venivano pubblicati a spezzoni, cioè a pezzettini, a puntate, poi raccolti in un racconto vero e proprio, in un libro magari. Mamma, vado in brodo di giuggiole, restiamo al fine 800 e ricordiamo che il 29 gennaio Carl Benz, il famoso Benz, cosa può aver fatto? Uno che si chiama Carl Benz? Benz tedesco. Ha brevettato la prima automobile a benzina funzionante. E non sappiamo se benzina deriva da Benz, ma sì, pensiamo che comunque sia così, quasi certo. E comunque la Benz si unì poi con la Margaret per fare... Sta facendo una battuta e non l'ho capita, la prego me la spieghi, se ce la fai. Dunque no. Sto pensando. Si unì con Mercedes, faccio un passaggio. Ah, ecco. E il dottor Benz si unì con Mercedes per dare vita alla famosa ditta Mercedes-Benz. E al primo matrimonio omosessuale della storia. Esatto, come ha potuto intuirlo? 1958 entra in vigore la legge Merlino, abolisce le case chiuse in Italia. Dando vita ad un dibattito ancora vivo in tutto il paese. Sì, no, ma guarda. Avranno fatto bene o avranno fatto male? Lei è pro o contro? Si sbilanci. Non riesco a pensare a nient'altro che alla battuta Mercedes-Benz. Chiudiamola qui, la prego. Un augurio, un saluto a Merlini, alla sua legge molto molto contestata, molto molto discussa. Medaglia. Pane, burro e rock and roll ha deciso. Uno dei sette vizi capitali è decisamente più rock degli altri. È l'invidia, un'esternazione talmente compromettente da risultare fondamentale. Medaglia. Confessaci la tua invidia. Garantiamo l'anonimato. Ciao ragazzi, io faccio lo speaker in una radio locale ormai da 10 anni. E nessun grande network radiofonico mi ha mai chiamato, mi ha mai contattato per lavorare in nazionale. Io probabilmente meritavo di più. Io invidio. Medaglia. Iscriviti anche tu, invia un SMS al 335-100-7777 col testo L'invidia è rock. Lamentarsi è deprimente, invidiare è rock. Medaglia.